I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. La questione lavoro continua a rappresentare uno dei grandi problemi del nostro paese. Come ha detto ieri Ignazio Visco, governatore di Banca Italia, la mancanza di lavoro, la crescita della disoccupazione sono l'eredità più pesante e dolorosa della lunga crisi economica dalla quale siamo sì usciti, ma senza quel dinamismo che si vede in molti altri paesi. Per il lavoro, in questo scenario non positivo, sorprendono però i nuovi dati Istat sull'occupazione. Ad aprile non solo si registra un buon calo del tasso di disoccupazione, che dall'11,5 scende all'11,1%, che porta le persone in cerca di lavoro ai livelli più bassi degli ultimi anni, ma soprattutto perché sempre nel mese di aprile l'Istat dice che il numero delle persone occupate è aumentato di 94.000 unità rispetto al mese di marzo, e ancora che di questi nuovi occupati più di un terzo sono dipendenti a tempo indeterminato con contratto stabile. Certo, va detto ancora, la situazione dell'occupazione in Italia resta grave, e per valutare se i buoni dati di aprile segnano davvero un cambio di rotta rispetto al passato dovremo aspettare le prossime rilevazioni, il prossimo dato. Qualche anomalia comunque già ora la possiamo segnalare, ad esempio il fatto che tra i nuovi assunti la fascia di età più premiata sia essenzialmente quella degli ultra cinquantenni, quindi lavoratori espulsi dal sistema produttivo e che riescono a ricollocarsi, forse perché questi lavoratori sono disposti più di altri ad accettare salari leggermente più bassi pur di ritrovare un posto di lavoro. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alessandro Plateroti. Mentre la Banca Centrale Europea continua a pompare denaro nel sistema finanziario per far salire l'inflazione, i problemi della Banca Centrale Inglese sembrano un po' diversi. Quello di far salire i salari almeno in linea con l'inflazione, che già di per sé è modesta. A dirlo sono soprattutto i dipendenti della Banca Centrale, che hanno annunciato la possibilità di uno sciopero di più di una settimana se il governatore Carney non prenderà in considerazione un aumento degli stipendi quantomeno più alto del tasso di inflazione. Oggi i dipendenti della Banca Centrale guadagnano 20.000 pound, più o meno 25.748 dollari, ma la promessa che avevano avuto era quella di un sostanzioso incremento. Carney invece ha chiamato McKinsey, che dopo uno studio sulle strutture salariali ha deciso di abbassare radicalmente quanto era stato promesso ai lavoratori della Banca Centrale. A questo punto ci sarà tempo fino al 21 di giugno per trovare una soluzione. La Banca Centrale ha detto che cercherà ogni soluzione possibile per evitare uno sciopero che veramente per i mercati finanziari potrebbe essere molto complesso, ma in realtà la partita resta aperta. Che dire? Certamente che la questione dell'inflazione e la questione delle banche centrali continua a tenere banco su tutti i paesi del mondo, confermando così che l'uscita dalla crisi non è ancora del tutto finita. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.